America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, andiamo subito dentro la cena di Stato offerta da Barack Obama in onore di Matteo Renzi alla Casa Bianca. Sentiamo. Ecco, abbiamo cominciato con questa musichetta suonata dalla banda dei Marines, che intratteneva gli invitati, circa 400 persone, poco meno di 400 persone, in uno splendido tendone allestito sui prati della Casa Bianca, con tavolate ora rotonde, ora rettangolari, con grandi candelabri di vetro. Poi a un certo punto arrivano i due presidenti. Sentiamo. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Obama, accompanied by the Prime Minister of the Republic of Italy and Mrs. Agnese Landini. Per primo ha parlato Barack Obama. Matteo is called il rottamatore, the scrapper, the demolition man. Obama che scherza, discorsi leggeri, non sono stati discorsi di Stato, erano discorsi per fare un brindisi, racconta di Renzi ai suoi amici americani che è un rottamatore. Quando parla di Benigni dice: ma speriamo che non si metta a saltare qui sui tavoli della Casa Bianca. Sentiamo Renzi. It's an incredible honor, it's an incredible privilege to be here with you in this occasion of the last state dinner of President Obama. I'm really excited and really great. Renzi è davvero emozionato, felice, l'abbiamo visto davvero felice per questa accoglienza straordinaria che ha avuto dalla Casa Bianca. Una visita di Stato è davvero qualcosa di impressionante. E ha fatto un discorso alla fine sull'amicizia. All'inizio si è schernito, non so cosa dire, sono davvero sbalordito da quello che mi è stato preparato. Poi parla dell'amicizia, cita in latino cum panis, ricorda che il fatto di condividere il pane sul desco ha portato poi alla parola compagni, compagnia, e dice: noi questa sera non solo siamo in compagnia, non solo ci troviamo attorno a un tavolo a cenare insieme, ma lo facciamo in grande amicizia. Qual era l'atmosfera di ieri sera? Qual era l'atmosfera di questa amicizia? Sentiamo Roberto Bedigni, al quale lo abbiamo chiesto. Sì, l'amicizia è una manifestazione d'affetto, di bellezza e di grandezza, e trovate tutti gli altri aggettivi che volete, però insomma, ecco, io probabilmente rimango qua, sto cercando una cosetta nel parco vicino all'orto di Michel. Gli ho dato anche un consiglio, diciamo così, per il cavolo nero che si fa in Toscana, perché lei non capisce molto di cavolo nero. Passiamo rapidamente alla cerimonia d'arrivo di ieri mattina sui prati della Casa Bianca. Ecco, avete sentito le salve di cannone che venivano sparate sopra una marcetta di nuovo militare, una splendida giornata di sole, una giornata tra l'altro molto tiepida. Ci sono stati discorsi, il discorso del presidente americano, il discorso di Matteo Renzi, discorsi di nuovo improntati sul tema dell'amicizia. A un certo punto Obama dice, sentiamolo. As I believe our Italian friends say, prima il dovere, poi il piacere. Prima il dovere, poi il piacere. In effetti c'è stato un lungo incontro poi nell'ufficio ovale della Casa Bianca, e all'uscita, nella conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha raccolto l'endorsement, la sottoscrizione della dottrina Renzi da parte di Barack Obama in questa visita di Stato a Washington. Ecco, è stata una sottoscrizione, devo dire, incondizionata, come non era mai capitato di ascoltare in passato nei confronti di un leader italiano. Lo stesso vicepresidente Biden, in una cerimonia altrettanto bella poco dopo al Dipartimento di Stato, faceva sempre parte delle festività per questa visita di Stato, Biden ha detto di non aver mai visto in privato un rapporto così franco e amichevole fra Barack Obama e un altro leader straniero, e ha confessato, ha ricordato Biden, che Obama vuole davvero che Renzi raccolga una staffetta di leadership non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa, che ha bisogno d'aiuto. E sentiamo, proprio parlando d'Europa, cosa risponde Obama alla mia domanda. Do you think that in case the referendum will not go well for the Prime Minister, he should stay on and continue in his reforms? I am rooting for success, but I think he should hang around for a while no matter what. Ecco, io gli chiedo, se il referendum dovesse andare bene, pensa che Renzi debba restare in carica e continuare con le sue riforme? E Obama risponde in modo molto chiaro: io faccio il tifo per il successo del referendum, ma in ogni caso, Matteo, e si rivolge al Presidente del Consiglio, credo che dovresti rimanere comunque al timone per un po', c'è bisogno di te. Ecco, posizioni così esplicite di un presidente americano su questioni che riguardano un voto interno italiano saranno certamente strumentalizzate da molti come una intrusione dell'America nei nostri affari interni, intrusioni da condannare. Ecco, devo dire, non potrebbe esserci nulla di più sbagliato di questo atteggiamento, sia nell'interpretazione dei fatti che nelle conclusioni. Obama ha parlato molto bene, è davvero un uomo straordinario, con questo suo modo di fare pacato, riflessivo. Il presidente americano ha urlato in realtà una verità davanti agli occhi di tutti noi, ben più importante del referendum italiano. L'Europa, ha detto, rischia di sgretolarsi e il referendum italiano, in fondo, è soltanto un passaggio in questo percorso. Sentiamo come mi risponde. I do believe that there is a connection between stagnation and some of the less constructive populist impulses that have been rising up Ecco, Obama qui dice: in Europa c'è una stagnazione che ha fatto da embrione ai populismi, in Europa c'è una generazione perduta per colpa della miopia di politiche per l'austerità invece che per la crescita. Peggio, se non cambierà strada, l'Europa rischia di sgretolarsi. Un messaggio molto forte, dunque, soprattutto per Bruxelles, per la Germania, che si ostinano a trattare accordi siglati in aree geologiche diverse come se fossero scolpiti nella pietra, senza capire che in circostanze eccezionali si possono, anzi si devono adottare misure eccezionali. Ecco, in questo contesto storico di fragilità dell'Unione Europea, il voto italiano è dunque un passaggio, ma per il presidente americano è un passaggio chiave, perché dopo Brexit occorre serrare le fila e dunque rilancia una responsabilità sugli italiani. Che l'Europa cambi, dunque, che si renda conto che le scelte per un deficit spending più flessibile come ponte per la crescita sostenibile diventano essenziali per la sua stessa sopravvivenza. Draghi, dice Obama, da solo non basta, e il rischio è che la disperazione della generazione perduta in mancanza di un'azione rapida, questa disperazione potrebbe tradursi in una protesta, in un altro passo in avanti verso quello sgretolamento che nell'intimo dei nostri cuori credo che nessuno, ma proprio nessuno, possa davvero auspicare. Sentiamo la domanda che ho fatto al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Abbiamo incontrato molti investitori a Wall Street preoccupati dall'ipotesi che invece il referendum possa perdere. Sono investitori che hanno dato fiducia all'Italia e che minacciano, in caso di un risultato negativo sul fronte delle riforme, di andarsene. Ecco, lei cosa può dire a questi investitori per rassicurarli nel caso ci sia un voto negativo? Porte aperte. Io non credo che vi saranno cataclismi in caso di vittoria del no al referendum. Ma per non avere dubbi preferisco fare di tutto per vincere il referendum, così questo dubbio atavico che vi colpisce non avrà modo di essere testato. Ecco, poi Renzi torna subito al nocciolo della questione per spiegare ai mercati che oggi la posta in gioco in Italia è molto specifica. Sentiamo. Passi il messaggio che questo referendum non è un referendum sui grandi temi mondiali, è un referendum molto semplice. Volete o no semplificare il sistema istituzionale italiano dando più stabilità e tempi certi alle leggi. Quindi è un sistema che vuole rendere più semplice il paese. Infine ho chiesto al Presidente del Consiglio se fosse pronto a dare continuità alle riforme, impegnandosi a restare anche in caso di sconfitta, perché i mercati aspettano una risposta anche su questo. Wall Street, come sappiamo, è preoccupata. Ecco cosa mi ha risposto. Quello che accadrà nei prossimi mesi lo vedremo, come direbbe un grande cantautore italiano, lo scopriremo solo vivendo. Quello che posso dirle è che vincerà il sì al referendum, per cui lei non avrà più problemi di fare questa domanda. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Calvin Harris featuring Gwen Stefani. Gwen Stefani, invitata alla Casa Bianca, era la cena, ha poi cantato e allora ho scelto del suo repertorio Together, una canzone simbolo di questa visita insieme. Always running from what feels right. Too fast, and I didn't know. Then a minute turns to daylight. You're here, nowhere to let go. Don't look back when you're holding me. Washington è tutto. Mario Pratero, al seguito del Presidente del Consiglio Renzi, vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!